Faccio due foto, tu che mi dai? Niente. Very nice, dietro le guardie Miami Vice. Sogno le Hawaii, due tre cime dentro il Calvin Klein. Ho solo Nike, perché scappo da grandi guai. Se sei rotto, frate, giamma giusta. Riempio il posto, svuoto quella busta. Baby, floti, busta, che ha un colpo di frusta. C'ho due tipi al braccio fra Colombia e Russia. Poi dopo in camera mi apre grande. Allora scendo, entro tra le gambe. Vado adellante, le unghie nella schiena. Poi scendiamo a cena, vino e chiave sante sul divano. No che non ci vado piano. Faccio sta merda finché non mi fanno fumare pure in aeroplano. Non mi frega un cazzo di fare la gara di questo rap italiano. Vela diamo adesso, anche prima acceleriamo. Vinco sempre, sempre, sempre, mira Celentano. Quindi con nessuno abbasso il capo. Passami il sale, non mangio sciapo. Entro con le che vesti da Sadomaso. Fra farebbe citare anche San Tommaso. Chiudo il gioco a chiave, metto in salvo il vaso. Dico il vero, mica cosa a caso. Ho sentito il tuo singolo, a gara di cazzi vi batto col mignolo. Conto qualche capa, compro qualche giacca. Dimmi chi è l'ultimo stronzo, qualche rappa. Se sono sulla base è una martellata. Se sono nella stanza c'è una grande cappa. Rap di classe, sono il proprietario. Sulla punta, frate, ex proletario. Ora quando entro le donne mi riconoscono. Dalla voce come la rotina l'ombrellaio. Che roba hai? Ho roba nuova. Quanta ne hai? Ho tanta roba. Ho tanta roba. Ho tanta roba. Ho tanta roba. Ho tanta roba. Che roba hai? Ho roba nuova. Quanta ne hai? Ho tanta roba. Ho tanta roba. Tanta roba. Ho tanta roba. Tanta roba. Ho tanta roba. Tanta droga. Bitches è tanta moda, Fetteman, Lobutan, San Laurent, il guardaroba. Lato bitch mi incanta il cobra, sale sopra, me lo sloga. Pipa coca, sul mio zoca, fanculo a te, è il mio slogan. Artigliati come Logan, la mia clique peligrosa. Ti fa fuori per il nogra, culo finto, sarà toga. Lei mi succhia, yakisoba, io la flexo tipo yoga. Sulla track, faccio crack, cocaina, mista soda. Si pisci come un piccolo cucciolo, non stare con il grande cane. Sopra ste cagne, sopra sto caglia, in blindato, blingato. Tutankhamen, tripla giù come Golovkin, Cannibal, Anthony Hopkins. Tutti compri Gosha con fila, io una Porsche da 100.000. Con la tua tipa scopo solo in bocca, perché scrive a tutti e dopo screenshotta. Piscio Zacapa, Pippo Napa, non è bitch guapa, tolgo l'oro al papa. In Italia sono buscaglione, vero player con lo scaglione. La mia tipa, due pere, il tuo stipendio in due sere. Che roba hai? Ho roba nuova. Quanta ne hai? Ho tanta roba. Ho tanta roba. Ho tanta roba, ho tanta roba, ho tanta roba. Che roba hai? Ho roba nuova. Quanta ne hai? Ho tanta roba.